30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il capo del UN Food and Agricultural Organization, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, José Graziano da Silva, ha lanciato un allarme rispetto a una grave crisi del finanziamento per le attività dell'organizzazione nel Sahel e nel Corno d'Africa. Parlando a una conferenza economica internazionale, da Silva ha detto che nonostante i successi ottenuti lo scorso anno, la crisi dei finanziamenti alla cooperazione internazionale sta mettendo a rischio i risultati ottenuti. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti al nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Il fatto che l'Europa, il mondo occidentale stia vivendo ormai dal 2008 attraverso la crisi finanziaria che diventa economica, occupazionale, non nasconde, non solleva dalla realtà spesso molto ben più drammatica che il mondo vive ad altre latitudini. Ecco, la cooperazione internazionale, che sia pubblica o privata, come sapete, è un grande fenomeno, anche una grande industria che da ormai qualche decennio rappresenta una vera e propria parte di bilancio per molti stati del sud. E gli stati dell'Africa subsahariana sono particolarmente coinvolti da questi movimenti. Lo scorso anno abbiamo parlato più di una volta delle crisi che investiva nuovamente, causa clima, ma non solo, il Corno d'Africa. Bene, oggi facciamo il punto con due ospiti per cercare di capire appunto qual è lo stato dell'avanzamento della cooperazione in tempi di crisi del debito. Ne parliamo con Elena Di Fazio, che è manager per le relazioni aziende di Amref Italia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E con Enrico Bandecchi, che invece è direttore generale di NVG Italia. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a voi per averci invitato, grazie. Allora, Elena Di Fazio, innanzitutto, com'è la situazione? Qual è il quadro? Io ho citato solamente un dato macro, appunto, un allarme. In realtà gli allarmi fanno parte della nostra quotidianità, soprattutto quando si tratta di comunicare tra istituzioni e governi. La situazione attuale vista da una ONG che opera appunto da decenni in Africa. Beh, certamente il quadro è piuttosto complesso e appunto non semplice. Come dicevi tu, si assiste a in parallelo all'avanzare della crisi nei cosiddetti paesi occidentali, si assiste naturalmente anche a una diminuzione dell'entità e degli impegni che tali paesi poi assumono nei confronti, per quanto ci riguarda nello specifico, dei paesi africani. Con un esempio per poter avere appunto un quadro. Un esempio molto concreto è legato certamente alla diminuzione sia in ambito istituzionale, ma anche naturalmente in ambito per quanto riguarda le donazioni provenienti da privati, siano essi cittadini o aziende, nell'ambito della raccolta fondi. Devo dire tra l'altro che in termini diciamo più generali si assiste anche a un progressivo, a un processo, a una sorta, scusate, di relativizzazione dei bisogni, nella misura in cui il riscontrare come anche in Italia in ambito quindi locale ci sia un aumento dei bisogni fra la popolazione nazionale, questo purtroppo ci porta a relativizzare anche il livello di bisogno che cui sono sottoposte molte popolazioni nei paesi africani. Ecco, adesso ci arriviamo, cercheremo anche di capire magari in questo contesto quali sono i bisogni, diciamo, da cui non possiamo prescindere, da quelli che magari invece sono, come dire, il termine della cura dimagrante può valere benissimo anche per il sistema delle ONG. Ma vorrei ancora entrare nel dettaglio. Ogni anno in media un'organizzazione come Amref quanto raccoglie in termini di fondo e in che modo l'effetto di questa crisi vi sta colpendo? Allora, diciamo che noi come AMREF abbiamo indicativamente un bilancio di all'incirca 7 milioni, vado in maniera un pochino spannometrica, di poco meno di 7 milioni di raccolta fondi. 7 milioni di euro. Esatto, 7 milioni di euro. Abbiamo fatto, il nostro consiglio direttivo, unitamente allo staff, ha fatto la scelta coraggiosa di mantenere in via previsionale per il 2012 questo livello di raccolta fondi, ben sapendo che sarà naturalmente sempre più difficile raggiungere tale risultato. Di questi 7 milioni, quanto è pubblico e quanto è privato? Allora, per quanto ci riguarda, noi abbiamo un'assoluta preponderanza dal privato, nella misura in cui tenete conto che all'incirca il 14% ci deriva da fondi di tipo istituzionale, e poi escludendo il circa un 12% che ci deriva, o perlomeno ci è derivato per quanto riguarda il 2011, dal 5 per 1000. La restante parte, quindi, come potete ben immaginare, la parte preponderante ci deriva dai privati. I privati, dunque, se non sbaglio i conti, 14 più 12 fa 26, e dunque abbiamo un 74% che arriva all'incirca. Quindi esatto. Privati, donatori individuali, aziende. Aziende, esattamente. Per quanto ci riguarda nello specifico, la percentuale di donazioni provenienti da aziende si attesta su una percentuale di poco inferiore al 10%. Ecco, Bandecchi, ancora grazie di essere con noi questa sera. L'azienda privata, voi vi occupate di fotovoltaico, adesso ci racconterà anche un po' quello che diciamo svolgete, ma fondamentalmente perché oggi un'azienda italiana trova utile, opportuno, doveroso, non lo so, ce lo dica lei, sostenere delle attività che si rivolgono appunto all'esterno del paese? Ma le attività, come appunto insomma, le potrà anche confermare, no? La nostra referente, la Elena Di Fazio, è un percorso in questo caso dove l'NVG ha visto in AMREF un partner ideale in questo sviluppo, perché questa azienda nasce da un sogno dei formatori di poter, appunto, dei nostri due fondatori, nonché presidenti, Francesco Dantini e Antonio Rainone, che nascono come formatori e si innamorano appunto grazie alla formazione per costituire poi la nostra società di servizi, no? Che era dedita appunto alla formazione e alla motivazione personale e professionale di tutta la nostra rete vendita. Solo nel 2011 30.000 persone hanno partecipato ai nostri corsi, poi ecco che dal 2003 nasce questo sogno che è stato un po' un connubio fra ideali che vedevano l'esigenza di contribuire a un futuro migliore e più sereno alle generazioni future, passando appunto dall'esigenza di tutelare l'ambiente e la salute soprattutto dei bambini. Ecco, gli ideali naturalmente sono fondamentali, senza quelli non si va da nessuna parte, però vorrei chiederle, c'è qualche vantaggio, nonostante le complessità, anche voglio dire imprenditoriale, a coinvolgere un'azienda in un progetto umanitario? Ma il vantaggio, diciamo, che in questo percorso dove l'NVG è stata partecipe dal 2003 ad oggi, come lei diceva prima, un'azienda leader ora nel settore delle energie rinnovabili, proprio all'interno della green economy attraverso appunto le energie rinnovabili, che con oltre 7.000 impianti installati è un punto di riferimento sul mercato fotovoltaico e si è rivolta soprattutto alle piccole e alle medie imprese, è diventata appunto un case history, diventando appunto partendo da un percorso di diversificazione che è iniziato appunto anche nel 2012. È una nuova sfida dove il nostro primo prodotto per la mobilità elettrica, appunto, è la nostra NVG Zero, che ad oggi vanta oltre 500 richieste. Ecco Bandecchi, però questo non mi spiega dov'è il vantaggio imprenditoriale, se c'è, magari può anche non esserci. Arrivavo, e tutto questo è possibile appunto grazie alla nostra rete di vendita, ai nostri progettisti, installatori, agli studi tecnici, è un sistema azienda appunto che ha garantito l'impegno di 140 risorse umane, e che non è poco, e appunto coinvolto anche la nostra associazione che va a braccetto con AMREF, l'associazione ANTER, che è la nostra associazione nazionale a tutela delle energie rinnovabili, che oggi conta oltre 100.000 associati. Tutto è un parallelismo perché vede una rete di vendita che opera grazie a dei piani marketing predefiniti, dove appunto gli avanzamenti di carriera hanno le classiche logiche del multilevel. Ad oggi, per rispondere alla sua domanda, il nostro piano carriere si compone di 25 livelli che vanno dal livello 1 al livello K, dove il livello K si identifica con appunto il livello massimo, no, che fa riferimento alla vetta. In questo percorso i nostri presidenti, appunto sempre attenti alla salute e alla tutela dell'ambiente, nel 2004 hanno incluso AMRE all'interno del sistema di incentivazione della rete vendita, intestando appunto un pozzo AMRE agli energy broker. L'energy broker è la figura di riferimento del nostro network, più meritevole per gli obiettivi che appunto lo stesso energy broker ha raggiunto nel piano carriera. Insomma, quando si sale in carriera si diventa titolari di un intervento umanitario, abbiamo capito bene? Nel nostro caso l'obiettivo AMRE si raggiunge con il raggiungimento del livello 10. Ho capito, allora adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi torniamo con i nostri ospiti. Lo ricordo, Enrico Mandecchi è il direttore generale di NVG Italia, Elena Di Fazio è manager relazioni aziende di AMREF Italia, tra un momento. 30 minuti in cronaca. In che modo la crisi del debito colpisce i più poveri del mondo? Colpisce in termini di riduzione degli investimenti, del sostegno, del finanziamento che arriva ai progetti umanitari? Questa sera ne parliamo con Enrico Mandecchi, direttore generale NVG Italia, con Elena Di Fazio, manager relazioni aziende di AMREF Italia. Allora, Elena Di Fazio, qual è? Abbiamo sentito un caso, abbiamo sentito di come addirittura un'azienda metta, diciamo, nel suo percorso di crescita la non banale soddisfazione di crescere e diventare individualmente anche sostegno e contributo. Ma se allarghiamo lo sguardo sul sistema, quante aziende partecipano e di nuovo la domanda, è possibile fare quindi sostegno umanitario in un momento di crisi del debito? Allora, io direi che è possibile e oltre a essere possibile è utile ed importante. Noi proprio recentemente abbiamo organizzato la seconda edizione del CSR Summit, ovvero un convegno, un incontro che organizziamo per il secondo anno consecutivo proprio sul tema della corporate social responsibility, con l'obiettivo di promuovere e sensibilizzare queste best practice all'interno e nell'ambito del mondo imprenditoriale italiano. E va anche detto e precisato che ormai tutte le principali ricerche, i principali studi da Nielsen, Eurisco, insomma tutte le principali fonti attestano quanto le iniziative di responsabilità sociale si traducano per le aziende in un impatto positivo, sia in termini interni, nel caso citato ad esempio si faceva riferimento a un livello motivazionale da parte dei dipendenti, quindi una sorta di attività comunque di team building e appunto di incentivazione, ma anche a livello esterno, visto che ormai è opinione unanime e consolidata che il consumatore finale predilige anche a discapito addirittura disponibile a spendere un po' di più, a pagare un prezzo un pochino più alto per un prodotto ritenuto socialmente sostenibile o legato ad una causa sociale. Ecco, Bandecchi, nella vostra esperienza, quando andate poi in giro appunto con i vostri clienti a presentare i vostri prodotti, qual è la reazione? Non c'è qualcuno che vi dice ma in questo momento magari dovreste stringere sul vostro territorio? Lei ci chiama, cioè oggi questa sera è con noi dalla Toscana, ma per dire, la zona di Prato, Firenze, vive le sue complessità, non le capita mai questo? Ma ci capita nel senso positivo, perché le spiego, quando prima ho definito il registro di NVG è proprio perché è tutta un'altra cosa, perché mi spiego, i riconoscimenti che noi diamo appunto a chi raggiunge in questo caso un livello in carriera vengono praticamente organizzati durante eventi aziendali in cui vengono premiati gli energy broker, no? In questo caso che avanzano in carriera. E in queste occasioni noi prepariamo una location che praticamente è dedicata assolutamente ad AMREF, nelle quali tutti simbolicamente vanno ad indossare una spilla con questa partnership con AMREF, dove addirittura questa spilla noi scriviamo "Voglio il mio pozzo", dove appunto NVG in queste occasioni si impegna anche a organizzare la raccolta di fondi, come diceva appunto prima la collega, a favore anche in un momento di grande impatto emozionale, nel quale appunto si proiettano le fotografie dei pozzi realizzati durante l'anno in corso. Insomma, si visualizza collettivamente quelli che sono anche i risultati ottenuti. La trasmissione dei risultati è sempre stato un elemento, lo è e sarà sempre chiave, tanto più quando le persone si interrogano sul destino dei soldi, dell'aiuto che magari hanno appunto messo a disposizione. Tornerei da Elena Di Fazio. Quanto oggi, lei ci ha dato dei numeri che sono 14%, 12%, voglio dire, l'indicazione sembra chiara, senza il privato oggi di fatto non si sostengono questi progetti. Assolutamente no, tant'è che noi come AMREF esercitiamo sotto il profilo interno con costanza un impegno direi su due fronti, da un lato una rendicontazione sempre più trasparente nei confronti del donatore in merito all'utilizzo delle risorse, con l'impegno di ridurre costantemente, ottimizzare i costi, diciamo cosiddetti costi di gestione interna. Tenete presente che ad oggi, per quanto ci riguarda, soltanto il 12% dell'ammontare complessivo raccolto viene rappresenta i cosiddetti oneri di supporto generale, ovvero i costi di mantenimento della sede, gli stipendi dei collaboratori e quant'altro. Cioè dei 7 milioni che raccogliete, 12% sono destinati alla gestione, alle spese della struttura. Questo vuol dire? Alle spese della struttura, esattamente. Questo vi fa comprendere come il lavoro certosino che dobbiamo quotidianamente affrontare è anche sul fronte del risparmio e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse. Ecco, io credo che questo sia un punto importante. Già nel 92 un eccellente scrittore che si chiama Graham Hancock scrisse un libro, si chiamava I Nababbi della Povertà, che fece scandalo allora, perché raccontava, proprio apriva questo grande racconto mondiale sulla cooperazione con una sfilata di limousine verso la sede, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Allora fu uno scandalo, fu considerato veramente una provocazione. In realtà la questione che viene anche spesso sollevata in Africa è quanto la cooperazione internazionale serva per semplificare al mondo bianco dei cooperanti quanto a chi appunto ne riceve. Quindi spiegare quanto sia il costo di gestione di una struttura è un fatto importante. Allora, Elena Di Fazio, abbiamo ancora un paio di minuti, vorrei ancora chiedere almeno un paio di cose. La prima è: in che modo sta reagendo l'opinione pubblica nella fase della crisi? Cioè la crisi c'è, le difficoltà ci sono, gli italiani come reagiscono in termini ovviamente di sostegno alle vostre attività? Allora, gli italiani sono tradizionalmente una popolazione portata alla generosità. Certo è che oltre alla crisi si sommano poi una serie di eventi drammatici, ahimè imprevisti, come ad esempio il terremoto dell'Emilia, che naturalmente e comprensibilmente possono anche dare la tentazione di spostare il baricentro dell'interesse. Va detto però che poi gli italiani sanno essere anche spesso lungimiranti, forse più lungimiranti poi delle istituzioni che li governano, nella misura in cui comprendono benissimo che sostenere le popolazioni in Africa è anche fondamentale nella misura in cui aiuta e consente di arginare quei fenomeni altrettanto drammatici di immigrazione sregolata, rischiosa e clandestina che affligge poi il nostro come molti altri paesi. Insomma, quindi, se la politica estera è da sempre un'espressione, o meglio se la cooperazione è da sempre un'espressione della politica estera, c'è sempre un interesse legittimo né in una gestione appunto coordinata e intelligente della cooperazione internazionale. A proposito di priorità, lei ha citato giustamente le emergenze nazionali, quindi Emilia rispetto a una situazione internazionale impone una scelta, ma allora vorrei concludere sulle priorità. Quali sono secondo lei oggi i punti da cui non dobbiamo assolutamente recedere? In 30 secondi. Noi come AMREF per quest'anno e per il prossimo triennio ci siamo dati un obiettivo significativo e fondamentale legato alla salute materno-infantile. Abbiamo lanciato una campagna a livello internazionale che in Italia verrà lanciata quest'autunno, si chiama Stand Up for African Mothers, che è volta fondamentalmente alla formazione di 15.000 nuove ostetriche entro il 2015, con l'obiettivo di preservare e tutelare la salute delle donne in gravidanza e dei bimbi appena nati. E questo è dunque un punto da cui non fare passi indietro. Ci sono delle priorità, ci sono sicuramente anche dei ragionamenti, magari dei tagli, ma alcuni punti da cui non recedere. Grazie a Elena Di Fazio, manager relazioni aziende di Amref Italia, Enrico Bandecchi di NVG Italia. 30 minuti in cronaca continua anche su Facebook alla pagina dedicata, su Twitter naturalmente per le vostre riflessioni, i vostri commenti. Grazie naturalmente a Peter Bescappè in regia questa sera. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 19:30.